Speciale, la politica nel tunnel. Buon pomeriggio da un Montecitorio rinnovato, da Elisabetta Fiorito. Vincenzo, hai seguito tu per noi l'arrivo delle matricole, anzi delle matricoline, come li chiama Ignazio La Russa, qui a Montecitorio? Sì, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori, è proprio così. Elisabetta, abbiamo avuto anche una giornata decisamente simpatica, divertente. E inizierei però, prima di andare sulla giornata qui a Montecitorio per le matricole, da quanto è successo a Milano davanti al Palazzo di Giustizia, dove i parlamentari del Popolo della Libertà hanno marciato per protestare contro i processi a carico di Silvio Berlusconi e anche sul rifiuto del legittimo impedimento per malattia agli occhi nel procedimento Ruby. Sentiamo allora quanto ha dichiarato Angelino Alfano. E siamo qui a dire che ci siamo e che siamo i gruppi parlamentari di una democrazia repubblicana della Camera e del Senato e vogliamo che vengano rispettati i componenti della Camera e del Senato. Il secondo motivo per cui noi abbiamo dovuto interrompere questa riunione, che è stata interrotta in primis per la decisione sulle Ghedini e Longo riguardante il valore della nostra riunione, il secondo motivo sta nella visita fiscale al Presidente Berlusconi. In questo momento è sotto visita, è un fatto scandaloso. E il terzo motivo è la decisione dei giudici di Napoli, dei PM di Napoli, di chiedere il giudizio immediato nei confronti di un cittadino che aveva chiesto di essere ascoltato dal 15 di marzo in poi. Inno di Mameli, Elisabetta, un comizio sulle scale del Palazzo di Giustizia dai toni molto duri, quelli di Alfano. Il PDL vuole che si pronunci il capo dello Stato Napolitano mentre Berlusconi resta ricoverato al San Raffaele. Sentiamo allora un altro passaggio di Alfano. Noi difenderemo il nostro leader, la nostra storia, il Presidente Berlusconi, Forza Italia, il Popolo della Libertà, tutta la nostra storia, per difendere la democrazia del nostro paese e per difendere le istituzioni repubblicane che a nostro avviso sono sotto attacco perché si vuole eliminare per via giudiziaria il leader politico più votato di questi 20 anni della nostra storia. Noi abbiamo un interlocutore del quale ci fidiamo ed è il Presidente della Repubblica, che è anche il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. È l'uomo saggio che noi abbiamo conosciuto, cui affideremo la nostra preoccupazione per la democrazia italiana e per l'emergenza giudiziaria di questo paese. Ecco, insomma, toni molto duri fuori dal palazzo, ma dentro il palazzo, cioè dentro Montecitorio, c'è l'arrivo dei nuovi parlamentari. Bisogna dire un Parlamento molto più giovane, Vincenzo, sia i deputati grillini ma sia lo stesso PD, che si è molto rinnovato. Diciamo addio un po' alle parlamentari tacco 12, chissà se l'hanno usato per andare al Palazzo di Giustizia di Milano, un po' tipico del PDL, mentre più zainetti, persone un po' più tranquille, anche se 3 grillini sono stati pizzicati dal commesso in transatlantico mentre scattavano una foto e il commesso subito ha detto no, queste non si possono fotografare quello che avviene in transatlantico. Ero lì, l'ho visto, ho visto che sono stati redarguiti e devo dire il deputato grillino ha tolto la fotografia, l'ha cancellata. E poi con me non hanno parlato, però ha parlato un neodeputato del PD, sentiamo. PD. E quindi prima volta, quanti anni? 39. E che cosa ne pensa allora di tutto questo armamentario del transatlantico? Beh, da un punto di vista architettonico, spettacolare ovviamente, come quasi tutti gli edifici italiani comunque, fra l'altro. Però è chiaro che è un'emozione, è un grande colpo d'occhio. Io sono un sindaco, quindi ero abituato a un ambiente un po' come più... Come si chiama? Demene Kroger. E di che città? Ponte nelle Alpi, Belluno. Quindi chiaramente è una... un'altra dimensione, esatto. Ma riuscite a fare un qualche accordo con i grillini? L'ha incontrate le matricole grilline? Sì, ne ho incontrate qualcuna, ma credo sia tutto complicato, però vedremo nei prossimi giorni. Ma parlano con voi neodeputati? Perché con noi giornalisti non parlano. Due parole lo scambiate, non so, adesso vedremo. Che impressioni ne ha avuto? Ma alla fine sono... persone come noi, insomma, non è che stiamo parlando di marziani, quindi credo che bisogna riportare tutto alla normalità, questa è la verità, perché l'Italia credo ha bisogno di normalità, giusto? Grazie. Grazie. Ecco, quindi i deputati grillini del Movimento 5 Stelle, Elisabetta, dicono che non parlino con i giornalisti. Io sono stato fortunato perché ne ho avvicinato una, con un dubbio però che mi è stato instillato da qualche collega, e cioè che i grillini diano dei nomi falsi per non farsi riconoscere. Allora, questa deputata che ho avvicinato io si chiama Giulia Grillo, e allora onestamente mi è venuto qualche dubbio, poi ho verificato sui documenti ufficiali della Camera dei Deputati. E la possiamo ascoltare. Giulia Grillo. E da dove viene? Catania. Eletta per? Sicilia 2. Il Movimento 5 Stelle? Movimento 5 Stelle, sì. Senta, emozionata oggi per questo primo giorno? Un pochino, penso sia fisiologico. Certo. Senta, il fatto che il Parlamento abbia questa nuova veste con una percentuale molto più rosa, che significato le dà? Il significato che finalmente non c'è bisogno forse di imporre l'idea di una quota rosa, ma basta, è sufficiente una libera partecipazione dei cittadini. Senta, come arriva, con che spirito oggi qui in Parlamento, vedendo un palazzo contro cui avete combattuto, comunque un palazzo che si può aprire ai cittadini? Ma noi non abbiamo combattuto contro il palazzo, noi combattiamo contro delle logiche che sono state sempre prevalentemente a sfavore dei cittadini, anche se secondo me qui dentro qualcuno che ha fatto il bene per l'Italia c'è stato. Quindi credo che siano le persone che fanno la, diciamo, la sostanza. Ecco, abbiamo sentito però anche una grillina particolare che riconosce poi le battaglie politiche che sono state fatte anche dentro il palazzo. Allora, mancano anche un po' i fazzoletti verdi della Lega, ti ricordi? L'elmo con le corna, vabbè, qui non l'avrebbero mai potuto portare a Montecitorio, però un po' emblematico. Dove sono finiti i leghisti? Pochi ma buoni, direbbe qualcuno. Io ne ho incrociato uno anche in questo caso. Oggi proprio imbattibile. Particolarmente simpatico, e tra l'altro tifa per Totti, sentiamo. Ah, sono Marco Marcolin. Prima volta anche per me venire giù, per cui non è che non sono riconfermato. La prima volta, vediamo cosa succede. Emozionato comunque? Sono emozionato, hanno imparato tanti, imparerò anch'io. Ecco, ma visto la vostra esiguità qui in Parlamento, che ruolo pensa che giocherà la Lega? All'attacco sempre, come Totti. Comunque io non sono romanista, sono cagliaritano, quindi come Sau. Addirittura da Treviso cagliaritano? Certo, perché, cosa, perché si ricordi che i sardi è un grande popolo, per cui popolo sardo, grande popolo, indipendentista, e anche il Veneto lo sarà. Ma rischia di essere questa una legislatura breve? E che ne so io, tanto io devo tornare a lavorare. Avete già un che lavoro fa lei? Io? Io sono commerciale di un'azienda primaria a Treviso, sono responsabile commerciale. Ecco, allora Vincenzo, invece passiamo all'aspetto politico. Ha parlato qui il neopresidente dei deputati grillini, Roberta Lombardi, che ha ribadito che loro non fanno voti di scambio, che non è che vogliono il questore, non vogliono quello, non vogliono quell'altro. E a questo proposito però c'è un importantissimo incontro in casa PD, sentiamo cosa ha detto il segretario Pierluigi Bersani. Vogliamo farla una cosa per i pagamenti delle imprese, vogliamo farla una roba più potabile sul precariato, vogliamo farla sul conflitto di interesse, vogliamo farla le norme anticorruzione? Benissimo, si può. Domani si può. E credo che va detto con questa essenzialità e questa forza per mettere ciascuno davanti alle sue responsabilità, perché questo ragionamento che stiamo facendo, guardate che incrocia un senso comune piuttosto largo. Piuttosto largo, e anche, come dire, anche delle migliori risorse civiche di questo Paese. Dopodiché, naturalmente, noi ci manderemo avanti questa nostra, ciascuno si prenderà le sue responsabilità a chiare lettere, e non si diffonda l'idea, per favore, tantomeno da qualcuno di casa nostra, che noi siamo qui a andarci a cercare dei parlamentari o dei senatori o dei deputati, Sia chiaro, e io non accetto che venga messa in giro una cosa di questo genere. A noi ci interessano le posizioni politiche davanti al Paese. Ecco, a questo proposito Bersani ha pure attaccato Beppe Grillo senza nominarlo mai. Sentiamo cosa ha detto. Credo che molti sappiano, dicono, sapendolo attualmente, che questa nostra proposta è una proposta, è una strada stretta. Non lo dicono a me, è stretta, è strettissima, tutto quello che si volete. Vorrei capire qual è più larga di questa, però. Perché a volte, sai, ci hanno spiegato i nostri padri, Un moderno principe in formazione può non essere mai sazio, eh? Questo è un dato che si pensa di aver inventato la politica, ma non è una storia molto antica. Un principe in formazione può non essere mai sazio e quindi può pensare di tenersi le mani libere. Per che cosa? Per l'Italia? No, non per l'Italia, per una cosa che si chiama potere. Queste dunque le parole di Bersani. La notizia di questo momento è che è stato accolto anche il legittimo impedimento, il secondo, in favore di Silvio Berlusconi, quindi è legittimato a non recarsi in tribunale. Ricordo brevemente i prossimi appuntamenti parlamentari, che sono venerdì con l'inizio del lavoro di Camera e Senato e probabilmente, Elisabetta, l'elezione dei rispettivi presidenti. E noi saremo qui a seguirli. Io intanto vi saluto, un saluto a Elisabetta Fiorito. Buonasera da Vincenzo Miglietta.